известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Example, there's more money put into baldness drugs than are put into malaria. Now, baldness is it's a terrible thing. Questo signore spiritoso che fa ridere il suo pubblico si chiama Bill Gates, e quando si dice l'intuito, no? Questo signore si è ineffabilmente sottratto al mondo degli affari al momento giusto, appena prima della crisi. We understate its impact. Over 200 million people at any one time are suffering from it. Means that you can't get the economies in these areas going because sta raccontando al suo pubblico di una bella sala della California che in realtà gli americani spendono più quattrini per combattere l'obesità che per fare i conti con la malaria che in mezzo mondo ammazza un sacco di gente tutti i giorni. Poi a un certo punto nel corso di questa sua conferenza Bill Gates fa qualcosa di strano che non appartiene, no, alla rappresentazione che per anni ci siamo dati di questo straordinario personaggio, ovvero il genio insieme al collega rivale Steve Jobs dell'informatica, per cui quando appariva in pubblico di solito aveva tra le mani un aggeggetto nuovo, ci faceva vedere come funzionava, ci faceva capire che le autostrade della telematica, dell'informatica ci avrebbero portato lontano, come di fatto ci hanno portato lontano. Lui poi un bel giorno, un paio d'anni fa, due anni e mezzo fa, ha detto basta, ha detto Microsoft la lascio in mano ai miei compagni di cordata che sono bravi e hanno più voglia di me, io ho 50 anni, voglio cominciare a fare qualcos'altro, dal momento che riesco piuttosto bene, no, laddove mi applico voglio applicarmi a fare qualcos'altro, nella fattispecie voglio applicarmi a migliorare questo mondo nel quale sono capitato ed è diventato il più importante filantropo del mondo, soprattutto quando ha raccattato per strada i soldi dell'altro riccone americano Warren Buffett, più vecchio, anche lui dedito a accumulare quattrini ma anche a tenere gli occhi aperti sulla vita e sugli eventi non solo personali ma delle comunità che erano sotto il suo sguardo. Gli ha dato un assegno da tanti miliardi di dollari, gli ha detto Bill tu sei più bravo di me, c'hai anche più voglia, c'hai più preparazione, hai uno staff migliore, amministrali per conto mio. E così Bill Gates a tutti gli effetti è diventato il più importante filantropo del mondo. Ciò non toglie che ha cominciato ad applicare alla filantropia e alla causa principale contro la quale ha deciso di battersi, ovvero debellare alcune malattie semplici da sconfiggere, se ci fosse l'attenzione per farlo, soprattutto perché dal momento che avvengono, che vanno in scena in angoli del mondo, non esattamente, no, al centro dei riflettori, sotto il fuoco delle telecamere, allora lui su questo sta lavorando e deve fare che cosa? Deve ribadire, deve riusare quella sua straordinaria capacità comunicativa che ci aveva fatto apprezzare, a patto che noi poi apprezzassimo meno i suoi sistemi operativi, ma comunque la sua bontà nel saper vendere, no? nel convincere e anche nel motivare, nel trascinare, no? Nella grande rincorsa informatica che ci ha travolto un po' tutti alla fine del XX secolo, applicare tutto ciò alle buone cause che sono diventate a questo punto le sue cause. E così in questo giorno, in questa conferenza nella Silicon Valley, davanti a un pubblico plaudente, approvante, a cui lui aveva intenzione di sfilare un po' di dollari dalla tasca, ma che soprattutto voleva sensibilizzare, Bill Gates ha fatto una cosa piuttosto clamorosa, cioè ha messo in scena, come dire, per un istante ha fatto aleggiare in quella sala piena di velluti di colori discutibili il fantasma, nella fattispecie il fantasma delle malarie. Ha tirato fuori un vasetto, ha aperto il vasetto e dal vasetto si è scatenato nella sala uno stormo, un branco, non so come si chiama, una nube di zanzare che hanno cominciato a volteggiare fra il signore che cacciavano gridolini e, come diceva John Lennon, no, altre signore che facevano tintinnare i loro brillanti, e ha aspettato sadicamente un buon minuto prima di dire queste sono le zanzare che diffondono la malaria, ma state tranquilli ragazzi, noi non siamo dei sadici. Queste in particolare che ho portato qua sono free, no? Non sono libere dalla malaria, non sono infettate dalla malaria, però quello che voleva dire lui è che non c'è ragione per cui solo i poveri debbano ammalarsi di malaria. Ha fatto correre un brivido con questa sua straordinaria capacità di comunicazione su lungo le schiene di questi americani della West Coast, pronti a essere sensibili, pronti a essere ambientalisti, pronti a essere in favore del pianeta, però forse, come dire, un po' più riottosi, no? Un po' meno reattivi nel capire veramente di che cosa si sta parlando e che forse rifarsi, non so, il seno è una cosa meno importante che combattere le malattie del mondo, visto dove vanno indirizzati i quattrini spesi in ambito medico, un ambito molto largo, dagli americani. Si dice che il fondatore di eBay, Pierre Omidyar, che è un altro grande filantropo a sua volta con una potentissima fondazione anch'essa mobile su argomenti di questo genere, si sia spaventato più di ogni altro e abbia detto basta, non mi ci fregate più, non mi siederò mai più in prima fila in un evento di questo genere. E Bill Gates ha fatto molto rumore e noi a questo suo exploit abbiamo dedicato poi la news, la notizia, la richiesta, il gancio che abbiamo messo oggi sui nostri siti Facebook per sentire voi che cosa ne pensavate. Fra una decina di minuti ve lo raccontiamo. Invece uno che la sa lunga, ovvero Chris Anderson, che è il direttore di Wired, si è rivolto anche lui. Wired è una rivista di tecnologia intelligente, un mensile di tecnologia intelligente che a lungo, per molti anni, ha fatto veramente opinione in America, osservando Barack Obama e la sua rivoluzione energetica verde. Ha detto l'America sta cambiando semplicemente valle, sta passando dalla Silicon Valley alla Sun Valley, dedicando tutto il suo entusiasmo, tutta la sua approvazione all'attuale operato in campo di rinnovamento energetico, su ciò che Barack Obama sta facendo in questi suoi primi giorni alla presidenza. Peccato che non tutti la pensino come Anderson, anzi i dubbi attorno alle prime mosse di Obama alla Casa Bianca si stanno moltiplicando mentre si avvicina il momento in cui la famosa firma, no, dovrebbe permettere a questo stimolo economico che travalica i 900 miliardi di dollari di diventare operativo. Ma sentiamo Barack Obama. I value the constructive criticism and the healthy debate that's taken place around this package because that's the essence, the foundation of American democracy. That's how the founders. Questo è un discorso pronunciato ieri da Obama nel quale dice in sostanza ho capito che non siete d'accordo e ho capito, anzi, e questa è una cosa un po' più importante da notare per chi segue progressivamente le sue mosse, ho anche capito che non vi posso convincere tutti che la casa sì deve essere riunita, non deve essere un provvedimento repubblicano, non deve essere un provvedimento democratico, quello che sto promuovendo deve essere un provvedimento americano, ma so anche che il dibattito e la discordanza di punti di vista fanno parte a tutti gli effetti del nostro spirito americano. I dati usciti pochi minuti fa da Associated Press sono terrificanti, sono stati persi praticamente 600.000 posti di lavoro nel solo mese di gennaio in America, 3.600.000 posti di lavoro persi dal dicembre 2007, ovvero nel giro di 14 mesi, la disoccupazione al 7,6%, dato più alto dal settembre del 92. Gli espertoni avevano detto che i posti persi nel mese di gennaio sarebbero stati poco più di 500.000, avevano visto male, erano stati ottimistici. Meno di un'ora, tra 57 minuti, lì sono precisi, Obama parlerà di nuovo ufficializzando la nomina di un comitato di esperti che gli faranno da consulenti sulla questione economica. Sono nomi straordinari, uno per tutti, una personalità che abbiamo avuto la fortuna di conoscere, di apprezzare, Penny Pritzker, praticamente l'erede dell'impero Hyatt, una donna eccezionale che già alla guida della città di Chicago ha dato grande prova di sé. Questi esperti cominceranno a collaborare con lui È in corso il dibattito sugli standard etici che Obama continua a richiedere ai suoi collaboratori e sui quali molti editorialisti cominciano ad esprimere dei dubbi, dicendo che forse bisogna cominciare a privilegiare le questioni serie piuttosto che qualche piccola tassa non pagata. Insomma, tutto il succo del discorso qual è? Che c'è inquietudine attorno all'avvio della presidenza Obama. La luna di miele si è conclusa, i guai per stessa ammissione del presidente sono enormi, più grandi di quanto lui stesso pensasse. I suoi errori, a lui piace denunciarli anziché girarsi dall'altra parte, come ha fatto nel caso di Tom Daschle. Questa settimana si chiude così, sotto il segno dell'incertezza, e è la vigilia di altre settimane veramente drammatiche, veramente decisive per l'America. Noi siamo qui per seguirle e per raccontarvele, ma tra pochi istanti diamo invece la parola a voi. Bowie rifatto da Kurt Cobain e in Nirvana nei magnifici anni clintoniani, no? Quelli che ormai vengono chiamati gli Happy Days di fine XX secolo. Un'altra America diversa da quella obamiana, un'America forse è più in assonanza proprio con quel Bill Gates a cui abbiamo dedicato oggi il nostro Express Yourself attraverso l'ormai abituale veicolo di Facebook. Express yourself. Abbiamo messo un messaggio su Facebook, sul sito Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself, raccontando la storiella che vi abbiamo raccontato all'inizio, la storiella delle zanzare, quel modo di provocare, di coinvolgere, di chiamare in causa il pubblico in cerca di risultati effettivi, e vi abbiamo chiesto che cosa ne pensate. Emiliano, che ci hanno detto? E allora, tantissimi messaggi, poi con un grande imbarazzo per la scelta, perché per esempio c'è Valentina che, direi in modo perfetto ed ermetico, usa quattro parole e dice il signore delle mosche. Poi c'è Filippo che dice sicuramente bizzarro, ma con tutti i soldi che ha avrà fatto il test a tutte le zanzare, cosa che appunto certo. Ha fatto. E poi anche bella questo, oppure sotto il microscopio ha estirpato a tutte il pungiglione. Lui le vuole usare le zanzare. Le vuole usare, quindi è minaccioso anche. No, le vuole usare per togliere la malaria. Ah, ecco. L'idea è geniale. Poi c'è Paola Francesca, nostra affezionatissima, che scrive: forse ha preso ripetizioni da Oliviero Toscani. Il suo metodo shock mi ha provocato un salto sulla poltrona. E poi c'è Emiliano che rinnova l'eterna sfida che credo mai finirà con Steve Jobs e dice: e dire che lo strano era il suo antagonista Steve Jobs, sicuramente efficace per me, per smuovere imbalsiti spettatori pieni di soldi non credo che ci sia qualcosa di più efficace che terrorizzarli. I'm a PC, I'm a Mac. Dunque Luciano dice: una americanata, e per questo tanto spettacolare quanto semplice, tanto utile quanto poco discreta. Giorgio scrive che appunto vuole finanziare una ricerca per l'utilizzo di zanzare come vettori per la inoculazione di vaccini. Abominevole, dice Giorgio, personalmente sono contrario alle vaccinazioni. Alessandro dice: è da decenni che riesce a vendere un sistema operativo pieno di buchi, avete dubbi sulle sue abilità comunicative? C'è anche qualche critica, per esempio Guido dice che gli piace il Gates che rinuncia almeno in parte a potere e denaro, mentre il messaggio in questione non mi è tanto piaciuto. poi c'è Cristiano che si spinge addirittura nell'intimo quasi delle intenzioni di Gates e dice: certo che il senso di colpa dovuto all'immane ricchezza accumulata ne fa fare di tutti i colori. La scena è magnifica, comunque io immagino questo salone da convention. Comunque se ne è parlato, quindi sì, il colpo di teatro è... Guarda, io scommetto due cose: sull'altezza minimo 10 cm della moquette e sulla puzza galleggiante di uova fritte che c'è sempre in questo genere di convention, perché prima di mettersi lì a parlare, perfetto per le zanzare, a parlare di malaria si fanno una bella mangiatona. Giuseppe dice: mi sembra una scena tipica da episodio dei Simpson. Giovanni scrive: è stato un grande, sicuramente il modo corretto per sensibilizzare la gente alla risoluzione di queste malattie. Federico scrive: sicuramente efficace, soprattutto per chi magari stava già sonnecchiando, giusto? Mauro dice: come pubblico o come zanzara? Nel primo caso probabilmente gli tiravo le scarpe in faccia, non gli è piaciuto. Ma è una moda le scarpe. Come zanzara mi sarei vendicato contro il mio carceriere, una bella puntura sul collo a Bill. Paride dice: originale, però i presenti qualche puntura se la sono pure presa, ragazzi. Germana, volete andare a sentire Bill Gates? Germana, dopo un primo momento di sconcerto avrei detto tra me che quello era stato un modo efficace di comunicare. Allora, sempre nella messe di messaggi che sono arrivati, Dario Massimo: terapia d'urto, quindi non ha dubbi sull'efficacia dell'iniziativa di Gates, però poi prosegue con un po' di scetticismo perché dice: siamo talmente bombardati da messaggi shock che tutto poi scivola in un attimo, quindi forse anche questa ennesima iniziativa di Gates si perderà ben presto. Poi c'è Gianluca che dice: sarebbe bastato aprire le Windows, fa una battuta, insomma, d'altronde le ha inventate lui. E ancora per concludere, Laura: panico totale se avessi assistito al tutto, però un metodo molto convincente ed effetto. Marco scrive: a quanto pare la fantasia non gli manca di sicuro. Beh, no. Fabio dice: molto diretto e efficace. Matilde: non so come avrei reagito, forse avrei cercato di mantenere la calma, ma sono solo zanzare, ragazzi, mentre pensavo che il signor Bill era impazzito. Bello il signor Bill. Mukeba dice: trovata geniale, avrei voluto vedere le facce dei presenti. Scusa, abbiamo qualcosa da dire a Mukeba? Sì, ci ha scritto ricordandoci che appunto il nome è Mukeba e non il complicatissimo secondo nome che noi prendevamo per un suo cognome, invece è il nome del paese da cui proviene. Fateci gli scherzi. Gianluca: se ero presente gli avrei lanciato una scarpa. È la seconda, ormai questo lancio della scarpa è entrato. Beh, è già una notizia che nessuno gli abbia tirata di Gates, allora. Di ordinanza. Grazie per i vostri messaggi. Si riparte con la bacheca, che è sempre aperta, di Facebook. Si chiama Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself. Si riparte lunedì, ma qui naturalmente andiamo avanti tra poco. She curses the thought, 'cause when I spit the verse, the shit gets worse than worst, it's just soft. If I could fit the words, this picture perfect works every time. Every verse, every line, as simple as nursery rhymes. It's elementary, the elephants have entered the room. I venture to say with a center of attention, it's true. Not to mention back with a vengeance, so hence the signal of the bat symbol. The platinum trio's back on you hoes. So crack a bottle, let your body waddle. Don't act like a snobby model, you just hit the lotto. Uh-oh, bitches hopping in my Tahoe. Got one riding shotgun and no, not one of them got gloves. Now where's the rubbers? Who got the rubbers? I noticed there's so many of them in this building. Now that many of us and ladies love us. My posse's kicking up dust. It's on to the break of dawn and we're starting this party. Dunque, ritroviamo finalmente, lasciatemelo dire, un amico della prima ora di questa di questa trasmissione, e nonché anche un amico personale, se me la passi, Francesco Bonami, attualmente New York, dico bene? Buongiorno. Siamo ancora amici, sì? Sì, siamo sempre amici. Allora, Francesco Bonami, che è critico d'arte, direttore, cioè consulente, come si chiama? Supervisor, art supervisor al Museo d'Arte Contemporanea di Chicago, curatore di una celebre biennale di Venezia, e sempre attento naturalmente ai segnali dell'arte contemporanea, sia di qua che di là dell'Oceano Atlantico. L'abbiamo chiamato in causa perché sta andando in scena a New York una mostra interessante di cui parleremo tra pochi minuti, ma prima però Francesco ti volevo chiamare in causa, sapendo, conoscendo anche i tuoi interessi insomma per la società americana, per la politica americana, riguardo a questa curiosa vertenza, no, che avrai letto sui giornali, sta nascendo attorno all'icona un po' waroliana, no, di Barack Obama, che adesso si disputano a morsi, dopo che sembrava invece inizialmente una grande condivisione, sta diventando una sporca faccenda di soldi anche quel francobollo rosso e blu. Che ne pensi di questa storia? Beh, chiaramente, come tutte le cose che hanno creato grandi aspettative, creano anche grandi potenziali, grandissime delusioni, anche perché poi siamo noi pronti a deludersi, e a illudersi, a deludersi forse un po' esageratamente fin dall'inizio. Obama ha un nuovo stile. Oggi c'era sul New York Times questo articolo di David Brooks che diceva appunto che Obama è sicuramente ha portato uno stile completamente nuovo, però ha a che fare con un modo di fare politica convenzionale. La domanda che si faceva l'editorialista del New York Times era se Obama riuscirà con il suo stile a cambiare la politica, o se la politica convenzionale farà diventare anche Obama un politico convenzionale. Certo. E chiaramente i problemi sono molto molto gravi. C'è stato il caso del suo possibile segretario alla sanità, Daschle, certo, che ha dovuto rinunciare perché non aveva pagato le tasse. Quindi Obama ha alzato l'asticella molto alta, e da un punto di vista morale e anche di stile, che lo mette in una posizione molto molto difficile, perché ogni piccolo difetto dei suoi della sua squadra, se lui va condannato, certo, viene condannato. E quindi se lui veramente si attiene a dire che le regole per tutti i cittadini sono uguali, potrebbe essere che gliene vanno via almeno 5-6 dei suoi advisor, perché difficilmente sono privi di qualche macchiolina. Come tutti noi d'altronde. Oh, è altresì vero che insomma la situazione economica con la quale Obama si trova a fare i conti, Francesco, è gravissima. Lui stesso dice che è peggio di quello che poteva supporre. Vorrei capire, per esempio, facendo riferimento al mondo in particolare dell'arte e dell'arte contemporanea all'interno del quale ti muovi tu professionalmente, si cominciano effettivamente a sentire echi di questa crisi ormai diffusa e imperante in America, anche in questi settori? Sono cambiate le cose? Quel boom di qualche mese o anno fa è già un ricordo? Si stanno modificando gli scenari? Più che un eco, si è sentito un tonfo. Il mercato dell'arte in questo momento è quasi del tutto paralizzato, specialmente ai livelli più alti, a quelli più clamorosi, a quelli, certo, delle grandi vendite, dei grandi milioni. Però ieri, per esempio, c'è stata un'asta a Londra di Sotheby's di arte contemporanea che non è andata male, e dove mi hanno detto che i compratori sono principalmente italiani, belgi e tedeschi. Quindi la situazione è sicuramente mi elabori questa informazione. Che vuol dire che i compratori sono soprattutto italiani, belgi e tedeschi? Che i soldi stanno qui? No, che i collezionisti stanno ritornando a galla, collezionisti che erano scomparsi negli ultimi 5-6 anni perché i prezzi andati troppo in alto. Adesso che il mercato si è abbassato, che i prezzi stanno ridimensionandosi in maniera a velocità molto molto forte, ritornano i collezionisti che avevano hanno delle possibilità non eccezionali, ma decenti per poter ritornare sul mercato. Quindi non più i grandi americani, i grandi hedge, quelli dell'hedge fund o i russi che hanno perso tutti i soldi in questo momento o che sono molto cauti nello spendere soldi in arte e che vedevano nella sfida degli acquisti una sfida di potere. Quindi adesso che non c'è più questo, poi il potere si è sciolto, nessuno ha più questo stimolo quasi sessuale, direi, di comprare un'opera a 13 milioni. Mi piace molto questa sua descrizione. Senti, abbiamo ancora qualche istante, volevo dedicarlo a questa mostra che in un certo senso ripercorre tanti avanti e indietro che ci siamo fatti noi in questo programma fra est e ovest, fra universo americano e lontano oriente. La mostra è in scena al Guggenheim Museum, si intitola La terza mente, The Third Mind, e parla di influenze provenienti dall'Asia sui principali movimenti dell'arte moderna, insomma, lungo tutto il XX secolo. Principalmente degli artisti americani. Certo. Degli artisti americani, in pratica è una mostra prima della globalizzazione, in sostanza. Beh, una mostra prima della globalizzazione ci fa vedere come noi occidentali siamo dei veri cannibali in quanto influenze. Questi artisti bravissimi, molti tra cui i famosi musicisti John Cage, cioè Tom Marioni, tantissimi nomi, Klein, hanno proprio succhiato dalla calligrafia giapponese, cinese, i segni, non tanto i contenuti o i significati, ma i segni e ne hanno creato uno stile loro proprio. Quindi si vede come l'Occidente è estremamente recettivo a assorbire dei segnali, era molto recettivo a assorbire segnali da un est prima della globalizzazione, trasformandoli in linguaggi molto autonomi, cosa che invece l'est, che abbia più problemi a fare, è più un copione, all'est copiano di più, noi invece diciamo siamo forse più furbi, più scalzi, cancelliamo le tracce si riusa, come si diceva in tempi non sospetti. Un'ultima domanda, insomma, gli italiani non sfuggono, no, al richiamo di New York. Se tu volessi darci un segno, un consiglio, una cosa che magari proprio emblematica di questi tempi assai particolari che l'America sta vivendo, un gesto artistico, un'opera, una mostra, qualcosa che hai visto di recente che ti sembra estremamente contemporaneo e che consiglieresti di vederci, che cosa ti viene in mente, Francesco? Mi viene in mente, direi, ritornerei sempre al Guggenheim, dove hanno assegnato l'Hugo Boss, che è un premio molto prestigioso, Hugo Boss, sì, che di solito veniva assegnato ad artisti molto concreti, è stato assegnato a questa palestinese Emily Yassir, che ha fatto un lavoro molto concettuale, molto noioso. L'arte a volte alla vita è più lunga di quanto uno vorrebbe, di quanto meno. È un lavoro su degli intellettuali palestinesi assassinati negli anni 70, alcuni addirittura in Italia, e ha fatto questo lavoro che ha vinto questo premio. Quindi più attuale di così direi che non si può, lo vedrei più per informazione che più che per godimento, per documentazione artistico. Ma è sempre al Guggenheim, che adesso si può andare prenotandosi, si può andare a dormire dentro, che... No, era la mostra prima, che non era una vera mostra, l'opera di Castenholler. Chi voleva poteva andare e passare una notte dentro il Guggenheim. Cioè, un mio amico l'ha fatto ed è rimasto traumatizzato perché è una scena estremamente perché è rimasto traumatizzato? Faceva freddo perché forse? No, perché è deprimente, era solo in questa grande spirale e con la guardia in giù in fondo che lo attendeva, insomma, non è stata per lui, è stata un'esperienza interessante ma abbastanza traumatica. Sì. La mostra poi era una mostra che non esisteva, appunto, perché le opere erano più o meno tutte così. Ho capito, si saranno fatti una briscoletta, ci auguriamo. Grazie a Francesco Bonami e ai suoi commenti sempre interessanti sulla scena d'arte contemporanea. Keyboard so the kids will ask me how and why. I just wanna elevate myself. 360 gradi. News dai punti sensibili del pianeta. Dunque, ce ne sono per tutti i gusti, di ogni ordine e grado, e tra l'altro tra poco c'è questa comunicazione di Obama al termine di questa settimana rocky, direbbero gli americani, cioè agitata, turbolenta, sicuramente non altro che luna di miele. È davvero in mezzo al guado. Alcune notizie sorprendenti, di cui tra l'altro ci chiedete anche pareri, vero? Cioè, sono arrivate delle richieste sul Leon Panetta. Sì, molti vogliono avere commenti sul nuovo corso che potrebbe nascere così con Panetta alla CIA. Il nuovo corso sembra già nato, insomma, perché stanno intervenendo decisamente su alcune tecniche, anzi su alcune tattiche, diciamo così, di gestione delle persone che vengono trattenute, prese prigioniere e fino a poco tempo fa sottoposte anche a operazioni come quelle ad esempio che vanno sotto il nome di rendition, che sarebbe la cattura extragiudiziale di presunti terroristi. In sostanza vanno da qualche parte, se lo prendono, lo caricano su un aereo, se lo portano e chissà dove e chissà cosa segue. Leon Panetta ha detto al Senato ieri che l'amministrazione Obama non intende più servirsi di tecniche di questo genere, e poi procedendo su questo filone si è parlato naturalmente di waterboarding, di tecniche di interrogatorio e quant'altro, cose che erano permesse sotto l'amministrazione Bush. Panetta nel corso dell'audizione, che era poi quella per la sua scontata conferma a direttore della CIA, ha sottolineato che Obama avrebbe personalmente espresso un parere che somiglia molto a un ordine sulla questione, proibendo e mettendo una proibizione per le rendition straordinarie, ovvero quando un detenuto è inviato altrove per essere torturato o subire azioni che violino i diritti umani. Non si fanno più molte altre cose. La settimana prossima, sullo sviluppo del filone che si potrebbe chiamare semplicemente Guantanamo, tanto per essere chiari e sintetici, ci torneremo. Beh, se vogliamo, poi questa iniziativa ennesima di Panetta in combutta con Obama si inserisce nella scia anche delle prime iniziative su Guantanamo, no? Dell'inizio proprio dell'amministrazione Obama. E tra l'altro su Guantanamo c'è invece una protesta cinese, quindi mi allaccio anche a quello che ha appena detto Stefano, perché la Cina è preoccupata del destino di 17 cittadini uiguri di questa etnia particolare, minoranza musulmana, che Pechino guarda sempre con sospetto, per usare un eufemismo. Sono detenuti a Guantanamo dal 2002, ora con la nuova iniziativa di Obama potrebbero finire in qualche altro paese, per esempio si parla del Canada. La Cina protesta fermamente, vorrebbe riprendersi in patria gli uiguri, e credo che 17 uiguri in una prigione cinese farebbero, credo, una bruttissima fine. Sì, e se poi proprio vogliamo restare ancora su Guantanamo, invece di oggi la notizia è che la giudice Susan Crawford, che è quella che si occupa di presiedere il tribunale di Guantanamo, ha ritirato le accuse mosse al cittadino saudita che si chiama Abd al-Rahimi al-Nashiri, che è il principale sospetto per l'attentato, ricorderete, la nave statunitense USS Cole, avvenuto diversi anni or sono, nel 2000, 12 ottobre 2000, quando la nave era alla fonda nello Yemen. La giudice ha ritirato le accuse senza pregiudizio, cioè potrebbero essere ristabilite, ha precisato Jeffrey Gordon, che è un portavoce del Pentagono. Io cambio decisamente pagina, perché c'è una notizia secondo me fantastica che arriva dalla Cina, che riguarda parecchi commercianti del famoso mercatino delle pulci di Pechino, Silk Market, che vendono tradizionalmente dei falsi, dei grandi marchi internazionali, che sono scesi in piazza e hanno cominciato a protestare al grido "noi vogliamo mangiare, anche noi vogliamo mangiare", quindi si sono recati, insomma, furibondi, abbastanza irrequieti, presso lo studio legale di Pechino, uno dei più famosi, che ha tra i suoi clienti tantissimi nomi di spicco come Gucci, Burberry, Louis Vuitton, Prada e Chanel, insomma, e hanno cominciato questa protesta perché, insomma, sono stati completamente eliminati dal circuito delle vendite, dalle iniziative molto restrittive del governo di Pechino. La banda degli onesti non avrebbe saputo. Sì, diciamo che ormai questo mercatino delle pulci è stato trasformato in un mega centro commerciale. C'è stata un'ulteriore stretta l'anno scorso con maggiori controlli sull'onda delle Olimpiadi. Per esempio, prima si potevano vendere dei falsi Versace comodamente, adesso bisogna usare la formula poco convincente Varcise. Sì, che insomma convince poco, e quindi sono disperati, sono quasi sull'astrico, e anche loro protestano. Varcise per Versace, sì, questo sarebbe l'obbligo di cambiare il nome. C'era tutta una cinematografia attorno alle storpiature di Versace, ma andiamo avanti. intervistata in televisione dalla NBC, dalla famosa giornalista Ann Curry, una si occupa così di femminile soprattutto, Nadia Salaman, che è la mamma che ha dato alla luce la pochezza di 8 bambini qualche giorno fa. I know I'll be able to afford them when I'm done with my schooling. If I were just sitting down watching TV and not being as determined. L'intervista, ripresa anche in Italia, che è ascoltata in sottofondo, è anche piuttosto impressionante da un punto di vista emotivo, con questa giovane, bellissima, in perfette condizioni fisiche, mamma di sole 33 anni, una mamma, una single mom, una mamma non sposata, è assai interessante, sta facendo molto rumore sui media americani. Pensate che Nadia ha ricevuto addirittura minacce di morte, insomma la sua intenzione è stata giudicata e ritenuta irresponsabile. Si dice: ma come puoi pensare di mettere al mondo 8 bambini se non hai mezzi sufficienti per sostenerli? È chiaro che tutto ciò rientra in una specie di trash mediatico, cioè facendo notizia speri di attirare l'attenzione su di te e di trovare i quattrini per farlo. Lei ha raccontato tutta un'altra storia, una storia di sua personale solitudine infantile, poi una storia anche di impianti ben 6 volte tentati per cercare la gravidanza, di un profondo desiderio di maternità, di uno strano rapporto con i donatori dello sperma utilizzato, insomma una storia densa di umanità su cui può darsi ci sia anche un interesse mediatico, ma certamente non si resta davanti alla quale non si resta indifferenti. Si chiama Nadia Salaman, secondo me, poi tanto per essere cinico, il film è in arrivo. 8 figli che lei vuole crescere da sola, questa è la sfida soprattutto per il futuro. Noi abbiamo lei avuto, dice che vorrebbe arrivare anche a 14. Anche 14. Noi in Italia abbiamo avuto in anni 80 la famiglia Giannini, no? Con i 6 figli, certo, poi facevano quella famosa pubblicità di un ancora più famoso detersivo, no? Non si può fare naturalmente noi. Andiamo in Cina di nuovo con un simbolo della Cina di quest'ultimo periodo, il Sichuan, con il terribile terremoto dell'anno scorso. Secondo degli studi approfonditi di studiosi sia cinesi che stranieri, pare che la causa principale scatenata del terremoto del 12 maggio, che fece 80.000 morti, c'è anche una diga, una delle tante che hanno distrutto anche l'ecosistema cinese del bacino di Zigingpu, che aveva al momento del Zipingpu. Non riesco a dirlo, non hai detto la ogni stessa volta cosa. Che lo dico non hai detto la stessa cosa. Al momento del sisma che sfiorò gli 8 gradi della scala Richter c'erano dentro il bacino 320 milioni di tonnellate d'acqua, e questa è una causa, secondo loro, secondo gli studiosi, scatenante del terribile sisma. Ma ricordo 80.000 morti nel maggio di un anno fa. Arrivano ancora lodi per Bill Gates alla nostra messaggeria SMS 349-238-6666, che resta naturalmente in funzione anche nel weekend. Io vi ricordo che i siti Facebook si chiamano Redazione Jefferson 2 per parlare con noi, o Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself per partecipare ai nostri quotidiani piccoli forum. Questo è Jefferson 2, l'arte della svolta. Io sono Stefano Pistolini, con me Emiliano Enrico, in regia oggi a Roma Valerio Rocchetti e a Milano Pietro Lacorte. Abbiamo anche una mail, ma fa tanto XX secolo. Comunque abbiamo qualcuno anche mail che è Jefferson2 col numero radio24.it. Ci sentite in replica stasera a mezzanotte, oppure passate un meraviglioso weekend e ci ritrovate attorno alle 4 come sempre qui su Radio 24 lunedì. Ci risentiamo. Sei, 我回家去打坐取舍生养性，沉默的人最聪明，不做无聊的回忆。